Volare, oh, cantare, oh, let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal vento rapito, e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu. Chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, andare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù. Nel blu dipinto di blu.